Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Parla Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredit. Boschi mi chiese di Etruria, ma niente pressioni. Ricevetti anche un'email da Carrai. Uber è una società di trasporti, stabilisce la Corte di Giustizia Europea, e come tale va regolamentata. Eni, Descalzi e Scaroni a processo per la maxi tangente in Nigeria. Il GUP li ha rinviati a giudizio insieme ad altri 13. Manovra salvati di nuovo gli ambulanti. Proroga delle concessioni fino al 2020. Stasera la legge di stabilità in aula. Numero chiuso in metal detector a Piazza Navona per il periodo di Natale. Massimo 12.000 accessi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche, come sempre, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalla quale andiamo in diretta video. Se volete potete anche commentare, potete vederci là. Dall'altra parte del vetro oggi Filippo Oreggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione. Iniziamo ancora una volta dalla commissione banca, dai lavori della commissione d'inchiesta sulle banche e dalle parole oggi molto attese di Ghizzoni. Il primo e unico incontro con Maria Elena Boschi sul tema delle banche avvenne il 12 dicembre 2014, spiega Federico Ghizzoni, che davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta conferma di aver parlato di Etruria con l'allora ministra delle riforme. La ministra Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit valutare l'acquisizione o comunque un intervento su Banca Popolare dell'Etruria, stressando di nuovo che era fatto ed era richiesto, seguendo questa preoccupazione sugli effetti della crisi in Toscana. Risposi, dice l'ex AD di Unicredit, che avevamo già avuto contatti con Etruria, le strutture stavano esaminando il dossier e avrebbero risposto alla banca in totale autonomia e indipendenza. La ministra fu d'accordo, non avvertì pressioni, continua il banchiere. Da quell'incontro non ci fu più nessun contatto, a parte una mail ricevuta a gennaio da Carrai, amico di Renzi. Diceva: solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile e nel rispetto dei ruoli, per una risposta. Ghizzoni volutamente non chiese chiarimenti. Poco dopo, il 29 gennaio 2015, Unicredit rispose a Etruria di non essere interessata a investire. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente ci sono già delle reazioni anche dei diretti interessati. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così Simone, doppio commento allora nel giro di un'ora dell'ex ministro Boschi ed attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Si conferma che non ho fatto alcuna pressione, ho solo chiesto delle informazioni, ha scritto un'ora fa la Boschi su Twitter. Poco fa ha aggiunto: non mi dimetto, la verità è più forte di qualsiasi gioco mediatico e speculazione politica. Per me le parole di Ghizzoni sono molto preziose per la causa civile nei confronti del dottor De Bortoli, che vincerò. L'intervento dell'ex AD di Unicredit non presenta però novità per le opposizioni. Ghizzoni, dice Meloni di Fratelli d'Italia, conferma un quadro opaco che mette una pietra tombale sulla credibilità politica di Renzi e della Boschi. Toninelli, 5 Stelle, commenta: il PD va a pezzi su Bancopoli, lo scandalo in cui è coinvolto tutto il Giglio Magico, Renzi lasci la politica e Boschi si dimetta immediatamente. Quindi il leader della Lega Salvini, che scrive: audizione Ghizzoni, questa è una comica, tutti a casa. Da sinistra, Speranza, Liberi e Uguali, dice: ormai chiaro a tutti che le ricostruzioni di De Bortoli erano vere, non resta che trarne le conseguenze politiche. Diversa, Simone, la lettura del presidente del PD Orfini, che dice: Ghizzoni spiega che, a differenza di quanto scrive De Bortoli, l'opzione acquisto di Etruria era già aperta prima del colloquio con Boschi. Direi che possiamo lasciare le strumentalizzazioni a chi non ha idee e progetti da presentare al paese. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Siamo alla decisione della Corte di Giustizia Europea su Uber. La Corte Europea di Giustizia ha deciso che il servizio Uber è a tutti gli effetti un servizio di trasporto e come tale deve essere regolamentato alla stregua dei taxi. La sentenza riguarda un ricorso presentato dall'Associazione di Autisti di Taxi di Barcellona, ma la decisione avrà una portata generale. La Corte ha seguito l'opinione dell'Avvocato Generale del maggio scorso. In questo senso considera che Uber non è solo un servizio digitale di intermediazione tra il cliente e l'autista. L'elemento principale del servizio è il trasporto. Per questo motivo, sempre secondo la magistratura comunitaria, il servizio di Uber va regolamentato a livello nazionale e può prevedere precise autorizzazioni amministrative. Uber è al centro di polemiche in molti paesi europei perché sta mettendo a rischio delicati equilibri nel settore dei trasporti urbani. L'associazione di taxi di Barcellona aveva fatto ricorso nel 2014 ritenendo che la società americana è fonte di concorrenza sleale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Gli aggiornamenti dalla manovra. Un nuovo concorso per i dirigenti delle agenzie fiscali, riduzione poi sul bonus bebè che sarà corrisposto ai nuovi nati nel 2018 solo per il primo anno di vita e non più per i primi 3 anni del bambino. E saltano le modifiche alla riforma del lavoro perché non si è trovato l'accordo politico su stretta dei contratti a termine e aumento dell'indennità di licenziamento senza giusta causa. Sono alcune delle novità in arrivo con la manovra approvate dalla Commissione Bilancio della Camera che nel corso della notte ha dato il via libera alla legge di bilancio. La manovra passa ora all'esame dell'Aula della Camera che inizierà la discussione generale questa sera alle 21. L'obiettivo è concludere tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio entro venerdì 22 dicembre in terza lettura al Senato, ossia prima delle vacanze natalizie. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nella manovra, come già sentivate nei titoli, entra anche l'ulteriore proroga dell'applicazione della direttiva Bolkestein agli ambulanti. A un passo dal Natale, con le sue innumerevoli bancarelle e rivenditori ambulanti, nuovo rinvio al 31 dicembre 2020 per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante. Un emendamento del PD approvato nella notte in Commissione Bilancio della Camera prevede che restino valide le concessioni in essere. Soddisfatta la richiesta di imprese oggi che accoglie gli ambulanti nell'associazione, ma in più vengono escluse per il futuro la maggior parte delle categorie che vivono di questa attività, come sottolinea Marrigo Rosato, responsabile organizzativo di Imprese Oggi. Coloro i quali possono dimostrare nell'ultimo biennio di aver introitato dall'attività ambulante il reddito prevalente per la loro sussistenza. Ma secondo Rosato, di fatto la direttiva ormai non sarebbe più applicabile senza incorrere in sanzioni. C'è una parte della direttiva Bolkestein che finora non era stata mai compresa. Uno Stato poteva anche estromettere l'ambito applicativo ad alcune categorie se ciò avesse comportato delle problematiche sociali. Una città come Napoli o una città come Roma, 12.000 ambulanti tra 12 anni, che cosa avrebbero fatto? Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di bancarelle, a proposito di ambulanti, di certo le bancarelle sono un simbolo del Natale a Piazza Navona, Natale che però quest'anno sarà a numero chiuso. Roma si prepara ad un Natale blindato, almeno nelle principali piazze del centro storico, prima fra tutte Piazza Navona, che ospita il tradizionale mercatino della festa della Befana, sempre molto frequentato da romani e turisti. L'accesso alla piazza sarà contingentato. La capienza massima fissata è di 12.000 persone, sono state già allestite barriere mobili e transenne ai varchi di ingresso e sono previsti controlli a campione con i metal detector da parte delle forze dell'ordine. A prevederlo è il piano per la sicurezza al quale stanno lavorando in queste ore comune, prefettura e questura, un piano che nelle prossime ore verrà esteso anche ad altre piazze come Piazza Navona e la piazza di Fontana di Trevi, dove non ci saranno però transenne ma un sistema di filtraggio che entrerà in funzione nei momenti di massimo afflusso di visitatori. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andranno a processo Scaroni e Descalzi nelle indagini sulla maxi tangente Enimont. La presunta maxi tangente Eni in Nigeria. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, Simone, vanno a processo i vertici dell'Eni, l'attuale e il precedente amministratore delegato, insieme ad altri 13 imputati alla stessa società per presunte tangenti in Nigeria. Claudio Descalzi e Paolo Scaroni sono stati infatti rinviati a giudizio dal giudice Giusi Barbara per corruzione internazionale insieme allo stesso colosso petrolifero e alla multinazionale Shell, imputate per la legge 231 sulla responsabilità degli enti. Una decisione che arriva dopo anni di indagini e una lunga udienza preliminare, una decisione della quale il CDA della società prende atto, ma conferma massima fiducia in Descalzi e la totale estraneità rispetto ai reati contestati. La vicenda riguarda l'acquisto in Nigeria di una quota nella licenza denominata OPL 245, come ricorda in una nota la stessa Eni, e per l'accusa sarebbero stati versati $1.3 miliardi a politici nigeriani da parte delle due società per lo sfruttamento di una giacimento petrolifero e tra i mediatori della presunta tangente anche Luigi Bisignani, anche lui ora rinviato a processo. Il dibattimento si aprirà a Milano il prossimo 5 marzo. Ed è tutto, Simone. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Andiamo alla Catalogna che si prepara al voto. Il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno da Barcellona. Barcellona che vive oggi un'insolita giornata di riflessione elettorale in vista di elezioni autonomiche domani che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del processo indipendentista che ha portato 2 mesi e mezzo fa al referendum conclusosi tra le violenze della polizia spagnola. Tutti i sondaggi danno in vantaggio ancora una volta il blocco separatista diviso in 3 partiti tra cui la lista del presidente deposto Puigdemont, Junts per Catalunya. Questo blocco potrebbe ottenere una maggioranza assoluta dei seggi come 2 anni fa oppure una maggioranza relativa. Nel primo caso si entrerebbe in acque totalmente inesplorate con un nuovo governo secessionista e il rischio di un ritorno al commissariamento della Catalunya mediante l'articolo 155 con effetti, come possiamo immaginare, politicamente imprevedibili. Gli stessi leader indipendentisti Puigdemont e Junqueras rischierebbero di rimanere all'estero o in carcere in caso di elezione. Se invece l'indipendentismo vincesse, ma con una maggioranza relativa, entrerebbe in gioco in modo determinante l'ala catalana di Podem. Radio 24 questa mattina ha intervistato Marcel Mauri, vicepresidente di Omnium Cultural, una delle 2 maggiori associazioni indipendentiste. Sentiamo. La verità è che il movimento indipendentista ha sido sempre. Siamo un movimento pacifico e democratico, ci ha detto Marcel Mauri. Gli indipendentisti accetteranno il risultato delle elezioni di domani. Chiediamo anche al blocco monarchico e costituzionalista di rispettare il risultato delle elezioni qualora perdessero. E da Barcellona è tutto, vi restituisco la linea. E grazie Sergio Nava per questo aggiornamento dalla Catalogna. A proposito di nazionalismo, si parla da qualche parte di un effetto Trump in versione alpina, almeno è quello che suggerisce lo storico e politico verde sud tirolese Hans Eis, che nella vicenda dei passaporti che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l'ipotesi che il nuovo governo austriaco, che ha all'interno una componente di estrema destra, conceda il passaporto anche austriaco alle popolazioni alto atesine di lingua tedesca, la vicenda dei passaporti vede in primo luogo il segnale dell'ondata nazionalista che soffia sull'Europa. Sentiamo Heiss. Sì, in un certo senso il nazionalismo si riafferma anche in Austria. Col governo di centrodestra si è affermato uno spirito di Austria first, l'Austria come prima, e ovviamente anche nelle regioni di confine spesso si alzano queste voci. Adesso anche con le paure della migrazione e dei rifugiati ovviamente si tende proprio a cercare di esasperare, diciamo, l'autonomia, se no anche, diciamo, la volontà di passare a un momento secessionistico. Vedremo anche in questi giorni quale sarà l'esito del voto in Catalogna, e pertanto siamo veramente nuovamente tornati a una fase dove queste problematiche creano ovviamente scompiglio, e anche, diciamo, la questione del passaporto è subito entrata in queste coordinate. Andiamo agli statali. Nel rinnovo del contratto si prevederebbe una mini pausa pranzo. Aumento medio di 85 euro lordi, buoni pasto a 7 euro, tetto agli straordinari e ipotesi di pausa pranzo accorciata. Prende forma il nuovo contratto dei dipendenti pubblici sul quale l'ARAN, l'agenzia che tratta per il governo, ha convocato le sigle sindacali. L'appuntamento è nel pomeriggio e l'obiettivo è chiudere la partita prima di Natale, anche se potrebbe essere necessario qualche giorno in più. I temi sul tavolo infatti sono ancora molti, a partire dal nodo retribuzione. La prospettiva è quella di un ritocco in busta paga sostanzialmente uguale per tutti, 85 euro lordi, 50 netti, dando qualcosa in più ai redditi più bassi e con alcuni elementi perequativi che garantiscano il mantenimento del bonus degli 80 euro a chi già lo riceve. E poi buoni pasto da 7 euro uguali per tutti in tutte le amministrazioni. Il contratto conferma che dopo 6 ore si ha diritto ad una pausa, ma sulla lunghezza c'è ancora un punto interrogativo, l'ipotesi di farla scendere dai 30 ai 10 minuti, proposta caldeggiata dai sindacati con l'intento di eliminare un ostacolo alla flessibilità dell'orario. Si ragiona anche su un numero massimo di ore di straordinario, 180 l'ipotesi, mentre ci sono limature in arrivo sul capitolo malattia, in particolare l'ampliamento delle tutele per chi subisce gli effetti di terapie salvavita. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È morto nella notte a Roma il cardinale Bernard Law. È stato il film premio Oscar Il caso Spotlight a portare sul grande schermo la storica inchiesta del Boston Globe che svelò lo scandalo pedofilia a Boston e che rappresentò un vero terremoto per la Chiesa cattolica. Negli anni incriminati, dal 1984 al 2002, a guidare l'arcidiocesi c'era il cardinale Bernard Law, morto questa notte all'età di 86 anni. Law, questa l'accusa a suo carico, era solito coprire gli scandali sessuali nella sua diocesi, spostando i sacerdoti colpevoli da una parrocchia all'altra senza denunciarli. Travolto dallo scandalo, il 13 dicembre del 2002 si dimise, per poi essere trasferito a Roma, dove fino al 2011 ha ricoperto, non senza polemiche, l'incarico di arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Al suo posto, a Boston, ora c'è il cardinale O'Malley, che si è reso protagonista invece di un'opera di risanamento fino a diventare uno dei massimi referenti nella lotta alla pedofilia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Di cosa parleremo oggi? Beh, torneremo sulla sentenza Uber, quella della Corte di Giustizia Europea, che ha definito Uber appunto una società di trasporti e che va regolamentata in questo senso. Cercheremo di capire che cosa vuol dire questo per il nostro paese per quanto riguarda le regole italiane. Abbiamo parlato tanto di ordinanze contro il degrado, sta facendo discutere in queste ore, ha suscitato la protesta animalista, quella di Savona, dove il sindaco ha emanato un'ordinanza per dire potete portare i cani in giro per le parti più centrali nelle zone dello shopping, l'importante è che non facciano pipì. È un po' difficile da far rispettare, però chiederemo direttamente conto a lei di questa cosa e se ce la faremo, se ci riusciremo. Stiamo cercando di raggiungere anche il sindaco di Bardonecchia perché c'è stato l'ennesimo salvataggio di migranti che tentavano di attraversare il confine, 6 erano dispersi, 6 sono stati recuperati. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di quello che ha detto Ghizzoni in audizione davanti alla commissione banche. Ha detto che Boschi gli chiese di Etruria, ma non ci furono pressioni. Ci siamo occupati di Uber e torneremo a parlarne tra poco. La Corte di Giustizia Europea ha detto che è una società di trasporti, di Descalzi e Scaroni che vanno a processo per la presunta maxi tangente in Nigeria di Eni, la manovra e del nuovo salvataggio degli ambulanti con la proroga delle concessioni fino al 2020. Abbiamo parlato anche di Catalogna. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia. Si sa che i sindaci sono sempre piuttosto fantasiosi per quanto riguarda le ordinanze antidegrado. Abbiamo visto e abbiamo raccontato ieri la vicenda di Como, che ancora tanto sta facendo discutere. Como, nella quale sono stati multati dalla polizia municipale alcuni volontari, alcuni cittadini comaschi che andavano a portare il latte caldo a dei clochard che dormivano per strada. Ieri abbiamo sentito la voce di questa associazioni, vi devo dire che abbiamo riprovato a sentire l'amministrazione comunale che al momento non vuole parlare, da quel che abbiamo capito, per l'eccesso di richieste che stanno arrivando tanto al sindaco quanto al vice sindaco, che però insomma, si preferisce far parlare il sindaco. In questo momento le richieste evidentemente sono troppe e non vuole parlare. Questo perché alcuni di voi hanno criticato il fatto che siamo fatto sentire solamente quella parte. Vogliamo, e lo abbiamo già detto ieri, vogliamo far sentire l'opinione dell'amministrazione comunale, che al momento non ci risponde. A Savona invece Ilaria Caprioglio torna da noi. Sindaco, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. C'è questa ordinanza che sta facendo un po' discutere, ha fatto arrabbiare gli animalisti, no? Come funziona? Che i cani non possono fare pipì in centro? Allora, ma non ha fatto arrabbiare tutti gli animalisti, perché ho ricevuto molti messaggi di persone che mi sostengono, non solo sono i commercianti di questa zona centrale, non sono solo i cittadini stanchi di passeggiare in un centro che era ormai ridotto un po' male. Sono anche proprio i proprietari di cani, quei proprietari di cani educati e rispettosi che hanno sempre rimosso le deiezioni. E semplicemente io nell'ordinanza ho indicato che non si può usufruire del marciapiede di due vie cittadine, però si può tirare il cane giù dal marciapiede e fargli fare comunque nel tratto di strada, che fra l'altro è pedonale, per cui è un tratto dove possono tranquillamente anche passeggiare. Perché? Perché ho chiesto che non possono fare i bisogni corporali lì? Per il semplice fatto che noi abbiamo anneriti completamente tutte le colonne dei portici e abbiamo continue lamentele anche da parte dei commercianti, perché questi cani ormai, alcuni di questi cani, quindi alcuni di proprietari di questi cani, permettevano di far fare i bisogni nei vasi decorativi che mettevano i commercianti fuori, nei nostri vasi, nelle aiuole, sulle panchine, sulle pipe, che sono praticamente i contenitori per i rifiuti, che sono completamente arrugginite proprio per la minzione canina. Quindi sì, è semplicemente questa l'ordinanza, e è stata accolta, diciamo, se possiamo fare una statistica. Devo dirle la verità, che da padrone di cane sono abbastanza d'accordo anch'io, insomma, non mi piace quando la fanno. Mi perdoni, ma è stata fraintesa, perché subito hanno detto: e allora noi come facciamo? Facciamo volare i cani, non andiamo in centro, boicottiamo i commercianti del centro. È una questione di decoro. E i commercianti, per esempio, durante queste feste hanno anche tirato fuori gli alberelli decorativi, le passatoie e tutto, e se le trovano ogni giorno comunque insomma imbrattate. Si chiede semplicemente sul bisogno solido, purché raccolto, invece. L'ordinanza riguarda entrambi, mi scusi per la domanda. È un po' delicato parlare di queste cose, perché poi abbiamo cercato in punta di penna di scrivere l'ordinanza. L'ordinanza si riferisce ai bisogni corporali, deiezione e omissione, okay, per cui sono entrambi. E si richiede di portare il cane leggermente più all'esterno, diciamo, del marciapiede, fargliela fare, scusatemi, no? Scusate, perché poi scappa sempre la parola, meno tecnica. A me mi spiace per gli ascoltatori, perché siamo più o meno ad ora di pranzo, magari qualcuno starà mangiando. Perché ne va un po' per traverso. E poi ovviamente tirare su con il sacchettino oppure con la bottiglietta, insomma sciacquare un po'. Era perché veramente era diventata una situazione insostenibile, perché sotto questi portici praticamente si portavano alcuni proprietari di cani, sì, portavano veramente a fare i bisogni, magari si guardava la vetrina e intanto il cane alzava la gamba e faceva e non va bene, cioè, perché poi si marca il territorio, ma certo, e di conseguenza poi altri cani arrivano, ovviamente però, non se ne esce più. Ci terrei a precisare, ma è a tempo l'ordinanza o è definitiva? Io spero che sia a tempo, perché secondo me è proprio per dare nuovamente un po' un segnale di decoro. Fra l'altro non è che ci sia tolleranza zero fin dall'inizio, però poi quando faremo le multe saranno devolute in parte alle aree canine e al canile. Lo sai che c'è stata tutta una raccolta firme che dice andiamo a fare spesa in periferia invece che in centro? Sì, per ma questo secondo me è il senso, veramente, cioè bisogna avere un rispetto, sì, rispetto per la cosa pubblica e rispetto anche per le persone che lavorano. I commercianti che comunque ogni mattina si trovano a tirare sulla serranda, loro hanno per regolamento, sì, di doversi pulire e spazzare davanti, e lo fanno tutti, però un conto è pulire e spazzare, un conto è dover tirare su delle azioni canine. Ovviamente. E inoltre insieme a questa ordinanza c'era anche il ripristino comunque di 6 aree canine, 2 a spese del comune e 4 grazie alle associazioni per l'agility dog. Perfetto, quindi gli si vuole bene a queste bestie. La ringrazio, grazie Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, ci ha raccontato un po' di questa ordinanza che sta suscitando qualche polemica in zona, appunto un argomento più leggero ogni tanto lo facciamo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e, come si diceva, torneremo su questa sentenza della Corte di Giustizia Europea su Uber, perché pare essere molto importante, e vedremo di capire quali conseguenze possa avere sull'Italia, e poi appunto vedremo se riusciremo a contattare il sindaco di Bardonecchia. Eravamo già stati sul tema, avevamo già raccontato il tema è di un'altra via, per quanto piccola, per quanto ristretta, che sta portando i migranti a provare a passare il confine da quelle parti, a provare ad arrivare in Francia da quelle parti, con ovvi rischi per la vita, perché è il passaggio in montagne innevate e molto freddo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredit, parla in commissione banca e dice: Boschi mi chiese di Etruria, ma niente pressioni. Ricevete un'email da Carrai. La Boschi dice: chiarito tutto, non mi dimetto. Uber è una società di trasporti, stabilisce la Corte di Giustizia Europea, come tale va regolamentata. Eni, Descalzi e Scaroni a processo per la maxi tangente in Nigeria, il GUP li ha rinviati a giudizio insieme ad altri 13. Manovra, salvati di nuovo gli ambulanti, proroga delle concessioni fino al 2020, stasera la legge di stabilità in aula. Numero chiuso in Metal Detector a Piazza Navona per il periodo di Natale, massimo 12.000 accessi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Negativa la giornata, meno 0,31% il FTSE OCR, meno 0,4% il FTSE MIB, negativa anche Parigi che cede lo 0,19%, Francoforte lo 0,20%, Londra appena positiva dello 0,04%. Isabella Tasso, Radio Corriere sulle 24 ore, buongiorno, dacci un quadro, vai. Sì, le borse come ieri tirano un po' il fiato dopo aver scontato nei giorni scorsi l'ok alla riforma fiscale statunitense, via libera del Senato americano. La riforma è arrivata nella notte, l'ok definitivo viene ormai dato per scontato, anche se la riforma deve ora tornare alla Camera per un nuovo voto. I mercati sono inoltre cauti in vista delle elezioni in Catalogna che sono in calendario domani. A Milano ben comprate le Tenaris che mettono a segno una delle performance migliori del listino, guadagnano l'1,5% grazie al giudizio positivo di Barclays sul titoli, con un giudizio di overweight, cioè sovrappesare. Ben intonati comunque tutti gli energetici, rialzo anche le Fiat Chrysler più 0,4%, mentre ci sono trattative in corso con le autorità americane per la chiusura del caso emissioni prevista entro aprile. Nel comparto bancario prevalgono invece le vendite, in coda al listino Unicredit meno 1,6% e Banco BPM che cede l'1,5%. La banca, come atteso e previsto dal piano industriale, ieri ha annunciato di aver ceduto due portafogli di crediti in sofferenza per un totale di 1,8 miliardi. Un'accelerazione quindi sul fronte della cessione dei crediti in sofferenza. Dopo una mattinata in rialzo hanno preso la via del ribasso anche le UBI Bank meno 0,7% e le Popolare Emilia Romagna sempre meno 0,7%. Fuori dal listino principale corre invece il credito valtellinese più 9,7% dopo il via libera dell'assemblea alla ricapitalizzazione da 700 milioni di euro. E grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Caro Andrea da Modena, che ci scrivi e ci chiedi se abbiamo parlato della vicenda della preside che ha chiamato l'esorcista a scuola perché pensava che i ragazzi stessero evocando il demonio, mentre invece stanno facendo un gioco molto popolare su YouTube. No, non l'abbiamo trattato, devo essere sincero, ieri l'ho vista e ho detto tra me e me: questa è proprio una cosa da zanzare. Infatti, ce l'hanno Giuseppe Cruciani e David Parenzo, hanno avuto, credo, si sono occupati della vicenda e forse addirittura anche avuto la preside. Veniamo ad argomenti più seri però. Quello che sta succedendo ai nostri confini con la Francia, e torna da noi Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia. Oggi altri 6 migranti sono stati recuperati, erano dispersi mentre cercavano di attraversare il confine. Avato, come vanno le cose? Che cosa sappiamo di questa storia che arriva a pochi giorni da un'altra, tra le altre cose? Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Ma insomma, questa ormai è un po' una dinamica che va ripetendosi. Logicamente oggi le condizioni meteorologiche sono ben diverse rispetto a quella estiva e dell'autunno, per cui abbiamo moltissima neve, temperatura estremamente rigida, per cui statisticamente aumentano i rischi, come comprensibile. E appunto oggi ne sono state salvate 6 persone che erano disperse da quanto? Ma adesso le notizie proprio estremamente dettagliate, precise, dettagliate, in questo momento non le ho, ma diciamo che si tratta, come sappiamo, di un percorso che viene tentato, per cui è facile, se non si ha abbigliamento idoneo, calzature giuste, incorrere in problemi. Ecco. Sì, lei che è sul territorio, sindaco, i controlli come sono? Ci sono o è un'area talmente difficile da controllare proprio perché le vie di passaggio sono tante che è impossibile gestirla? Ma forse ovviamente il tema dei controlli sussiste, però per parte italiana viene fatto, cioè l'organizzazione delle forze dell'ordine italiana è tutta in massima allerta, per cui questi ragazzi, che lo ricordiamo, hanno la facoltà di girare per la più parte liberamente sul nostro territorio, possono muoversi e quindi non c'è ragione per la quale debbano essere, diciamo, in qualche misura trattenuti. Certo che però invece viene fatta una capillare attività di dissuasione, perché la spiegazione dei rischi a cui vanno incontro è l'aspetto più rilevante, a mio avviso, per cercare di fargli comprendere che quello che stanno facendo, pur essendo il più breve percorso verso quella che loro ritengono la meta finale, cioè la Francia, è in realtà uno dei più pericolosi, perché qualche chilometro in montagna a meno 15 significa correre il rischio di perdere la vita. E certo, è vero anche dall'altra parte, e la ringrazio, sindaco, come ci eravamo detti, Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, che questa è gente che in gran parte ha attraversato prima il deserto e poi il Mediterraneo, e quindi probabilmente nemmeno si fa spaventare troppo da una cosa di questo genere. Vedremo come evolverà la questione là al confine. Grazie dunque a Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia. Saluto un altro primo cittadino, Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, che torna da noi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi. Oggi è una bella giornata, ovviamente, per quanto possibile, perché per voi, perché si inaugura lo stabilimento della TOTS, quello che Della Valle aveva promesso, no? È vero, abbiamo inaugurato fino a mezz'ora fa, stavamo dentro la fabbrica, è una giornata bellissima, non dal punto di vista meteorologico, perché nevica, quindi... Però ecco, è una fabbrica che dà lavoro. Noi abbiamo adottato un po' come fece il Friuli. Pensiamo prima al lavoro, poi alle casette e poi le chiese, come dicevano quelli del Friuli. Perché senza lavoro non mi torna la gente, i giovani. E quindi l'esempio della Valle spero che faccia da traino ad altre aziende che vogliono investire nel nostro territorio, perché per ora è l'unica. È l'unica. È l'unica. Non c'ho altre attività qui, insomma. Petrucci, a proposito di neve, della quale lei ha parlato, è arrivata qualche protesta? Abbiamo letto un'intervista di una sua concittadina sul quotidiano Il Giorno, non so, sul gruppo del quotidiano nazionale, che dice: basta, lascio la casetta perché esplodono i tubi, insomma, sono fatte male, ci fa freddo dentro. Come vanno le cose? Beh, la problematica non è semplice. Diciamo che le casette, da un punto di vista, sono abbastanza idonee, però succede che le temperature non hanno previsto che qua in montagna, che di notte si arriva a meno 6, hanno messo dei boiler e delle tubature che ghiacciano, per cui si spaccano i tubi. Ma lo sanno, perché noi siamo tempestati di telefonate, l'abbiamo fatto presente alla Protezione Civile Nazionale, che ha fatto presente alla ditta, però noi purtroppo ci troviamo in Petrucci, prima linea, per cui Petrucci, ogni guasto di qualcosa. Petrucci, mi dica, quindi parliamoci chiaro, sono state scelte male o commissionate male queste casette, evidentemente, perché non è che non lo sapessimo che Arquata del Tronto è in montagna, e che d'inverno fa freddo ad Arquata del Tronto. Io lo so, io non sono un tecnico, quindi dal punto di vista tecnico che posso dire quello che succede adesso. I boiler che hanno messo sopra alle casette, che vanno a energia solare, non possono in inverno sopportare le nostre temperature. Per cui adesso li stanno isolando tutti e li riattiveranno in primavera, perché questo è lo scopo. O questo li isolano dal punto di vista che non ghiacciano, oppure devono staccare proprio e farle andare a gas, insomma a metano, come sta il riscaldamento nelle casette. Questo è quello che ci ha creato più problema. Lo credo. Senza pensare che poi qualche bagno non era conforme, insomma un po' di problematiche ce l'abbiamo avuta, sono superabili però. Sono superabili. Bisogna pensare pure che la gente dopo un anno e molto è tornata, forse si aspettava qualcosa di meglio. Però queste sono soluzioni di emergenza. Ovviamente temporanee. Io la ringrazio, grazie a Leandro Petrucci, che è il sindaco di Arquata del Tronto, per averci dato anche la testimonianza da qua. Come avete sentito nei giorni scorsi, avevamo sentito anche il sindaco di Visso, che ci aveva raccontato la stessa cosa, le stesse difficoltà per quanto riguarda queste casette, che evidentemente sono state pensate per un clima che non è quello nel quale si trovano. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, ciao. Buongiorno, no, eccoci qui per parlare di questa sentenza su Uber. È una società di trasporti, stabilisce la Corte di Giustizia Europea. Che cosa vuol dire questo, Maurizio? Che cosa vuol dire, soprattutto dal punto di vista italiano, se vuol dire qualcosa? Sì, vuol dire qualcosa anche dal punto di vista italiano, nel senso che appunto la Corte di Giustizia ha smontato la tesi classica di Uber, secondo cui loro si pongono soltanto come un servizio di intermediazione fra liberi autisti e la clientela. No, loro dicono che in questi casi la piattaforma di intermediazione, quindi l'app di Uber, fa parte integrante del servizio di trasporto e come tale, e qui veniamo all'Italia, ogni paese può regolamentare il trasporto come meglio crede. Il problema dell'Italia è che l'Italia di fatto per ora ha scelto di non decidere, nel senso che noi abbiamo approvato la legge concorrenza che prevede la riforma, è stato già prima che venisse approvata da questo scorso la legge concorrenza che prevedeva la riforma, è stato avviato un tavolo. Questo tavolo, come prevedevamo in tanti, è stato finora infruttuoso, si arriva quindi alle elezioni senza aver risolto il problema, quindi adesso nella legge di bilancio c'è un emendamento che sposta di un anno i termini del problema e quindi speriamo che il 2018 col nuovo governo sia l'anno giusto. Speriamo che sia veramente l'anno giusto. Nel frattempo, attenzione però che la sentenza riguarda il famoso servizio Uber Pop, che in Italia come nella maggior parte d'Europa non esiste più, cioè è il servizio che viene prestato dagli autisti non professionisti. Uber, come nella maggior parte d'Europa, continua a operare in maniera assolutamente legale col servizio Uber Black, che sono i famosi noleggiatori con conducente. Sì. I quali già di loro sono assoggettati a quella normativa, no? E quindi quelle prescrizioni già le rispettano in sostanza. Assolutamente sì. Quindi sostanzialmente oggi la Corte europea ha detto che gli Stati europei possono disciplinare questa forma particolare con autisti non professionisti. L'Italia non l'ha ancora fatto e secondo me sarà anche difficile che lo faccia entro il prossimo anno, ma vedremo. Ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Solo in chiusura una risposta ad un ascoltatore via WhatsApp che, a proposito delle famose casette di Arquata del Tronto delle quali abbiamo parlato e di quelle di Visso, ci dice: per quanto riguarda Arquata, questo dimostra quanto sono esperti i nostri politici. No, ma guardi che il tema non sono i politici, perché non è che possiamo buttarla tutta sui politici. Qua sono anche i tecnici, le persone che vanno a redigere i bandi di appalto e che non prevedono e non scrivono in questi bandi di appalto che caratteristiche devono avere queste casette, perché è evidente che se ho un tubo non coibentato in un posto dove d'inverno fanno meno 15, questo tubo non coibentato esterno evidentemente non va bene, si romperà, ed è evidente che un boiler ad energia solare in un posto dove nevica e dove il sole c'è piuttosto di rado, soprattutto d'inverno, è evidente che non va bene. Ed è tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti vanno a Filippo Regi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo, come sempre con GR24, una buona giornata da Simone Spezia.